Sì, intanto ciao a tutti e a tutte chi sta ascoltando. Sì, stamattina intorno alle 10, Omero, che è un signore che è a casa in piazza Brunelleschi, che si era conosciuto da tanti come Omero, ma nome diciamo vero Luca, si era un secondo allontanato dal proprio alloggio, quindi dalla propria dimora sulla strada. Mentre lui non era lì, la polizia municipale, circa 8 poliziotti e poliziotti municipali si sono recati sul posto e hanno avuto la bellissima idea di buttargli via il tavolo su cui lavorava, tavolo su cui usava disegnare, perché Omero è un disegnatore, un illustratore, e per campare disegna e vende i propri disegni alle persone della zona. E quindi questa è una grossissima mancanza per lui, non avendo più questo tavolo non può più disegnare, e quindi siamo un po' alla ricerca di un tavolo al momento da potergli portare in giornata. Inoltre la polizia municipale gli ha anche rotto la radio che usava, che gli faceva ovviamente compagnia nelle lunghe giornate in piazza, e gli ha portato via anche tutta una serie di altri oggetti, portato via nel senso buttare via una serie di altri oggetti che diciamo erano parte della sua casa. Ho capito. Ovviamente Omero era molto infuriato per la faccenda, anche perché è stato molto vile come atto, che nel momento che lui non c'era sì, è successo, quindi è tornato e non c'era più niente. Chiaro. E scusa, una domanda ulteriore e preliminare, ma tutte queste informazioni le hai sentite in viva voce da lui? Cioè ci hai chiacchierato, l'hai incontrato piuttosto che... Ero lì questa mattina, appena ho sentito la notizia ero in zona, e quindi ho deciso di andare un po' a vedere. Sono arrivato lì e c'era lui molto nervoso che imprecava, gli ho detto che l'avrei aiutato, che avrei un post su Facebook per ricercare un po' per ricercare una radio, un tavolo, insomma piccole cose, un po' di cose utili a ricostituire la sua dimora e anche i mezzi che lui usa per poter lavorare, per sostenersi. Quindi sì, ho avuto l'occasione di parlare direttamente con lui e mi ha raccontato un po' la situazione. Lui tra l'altro storicamente, vabbè, raccontava, è un personaggio abbastanza conosciuto in città, perché è sempre stato molto attivo in diversi frangenti, nelle piazze in cui sta spesso si prende cura dello spazio a sé circostante. Per esempio in piazza Brunelleschi lui portava avanti, come mi raccontava lui, una lotta, o comunque un discorso per limitare la vendita di eroina in piazza Brunelleschi. Quindi in qualche maniera Omero svolge, ancora oggi svolgeva una funzione di presidio nella piazza. Certo. Abbastanza, insomma, fa abbastanza incazzare che accada in maniera così abbastanza disumana e disumanizzante, che ci si rifaccia in zona di campagna elettorale con chi più sta ai margini, che ovviamente non è una sorpresa, però è abbastanza triste che questa cosa accada ancora e ancora e ancora in maniera reiterata. Sì, allora innanzitutto... No, innanzitutto grazie Enrico di questa testimonianza proprio, come dire, in prima persona. Importante, no? Sì, esatto. È bene purtroppo parlare anche di queste cose. Esatto. Poi i commenti che si possono, ecco, si possono da qui in poi disegnare sono tantissimi. Cioè quello che hai accennato tu, il clima di campagna elettorale che fomenta questa idea della città perfetta che non esisterà mai, specie in una città come Firenze, dove, ecco, accalcati, accalcate, siamo veramente tanti. Un altro commento mi è venuto in mente è che la figura di Omero non è affatto l'unica nel panorama cittadino, perché per esempio personalmente ho incontrato, e ovviamente non ricordo il nome e me ne scuso, l'altro uomo che si prende cura in maniera veramente, veramente lodevole del sottopasso di Campo Marte, della stazione, tutto tirato a lindo, manco, come dire, le agenzie di pulizia. Però, diciamo, questa roba qui, questo fatto, i 8 municipali, cioè, come si ascrive in un clima più generale di una città dal tuo punto di vista? Ma io penso che soprattutto, vabbè, ora si sta parlando anche di una zona specifica che è comunque Piazza Brunelleschi, una piazza per cui sono previste delle grandi trasformazioni urbanistiche, dal taglio degli alberi preesistenti al rinnovamento, fra virgolette, di alcuni fabbricati nella zona, che andranno a servire diciamo questa cosiddetta oselizzazione o comunque questa Riqualificazioni. dare maggiori servizi al turista piuttosto che all'abitante, Eccoci. cosa che caratterizza tantissimo il come la città sta continuando a svilupparsi, soprattutto per quanto riguarda il centro storico, ma che poi affligge anche in maniera molto più ampia tutto il territorio circostante, che è appunto questa inseguire un'idea di decoro e di bello che niente ha di bello se non quella di servire l'interesse di pochi che ovviamente non desiderano avere un clochard che in qualche maniera sta al di fuori della norma dello spazio pubblico che l'amministrazione Nardella, ma in maniera più ampia diciamo in diverse città come avviene, non è tollerata o comunque è tollerata veramente in dei limiti molto bassi, e appena c'è la possibilità di fare un po' di ripulisti, viene molto facile rifarsela con chi ha meno mezzi per difendersi. Tra l'altro ricordiamo qualcuno che però dà anche un gran contributo nel mantenimento della città, cioè, che quindi. Assolutamente, che crea la città soprattutto, cioè, tutti i ragazzi che vanno in Brunelleschi tutte le mattine a lettere o comunque le persone che passano lì conoscono perfettamente Omero perché ormai negli ultimi mesi, circa per 3 mesi, come mi raccontava stamattina, lui è sempre stato lì, non si è mosso di lì e sì, ha stretto proprio dei legami con le persone che vivono nella piazza tanto quanto con gli studenti, è diventato anche un punto di riferimento, fra l'altro è interessante che il luogo dove lui si è posizionato è direttamente all'ingresso della porta di Brunelleschi e in qualche maniera faceva proprio quasi da soglia, di invito, di benvenuto e di arrivo alla facoltà che comunque è uno spazio pubblico visitato da moltissime persone tutti i giorni. Quindi sì, era cioè, un ruolo umano fondamentale per caratterizzare quel luogo e anche per renderlo in qualche maniera più sicuro all'incontrato di come ci viene poi propinato questa idea di securitizzazione, no? C'è una securitizzazione fatta dalle telecamere e non dalle persone. Chiaro. Che è un po' la tendenza che si sta affermando un po' all'interno del centro storico, ma non solo, che piazzare telecamere piuttosto che affidarsi, diciamo, a una comunità più strutturata sembra essere appunto la direzione in cui andare, quando in realtà questo porta solo a un maggior controllo delle nostre vite, limitando poi la libertà personale di poter decidere nella vita magari Di non avere un tetto. di non avere un tetto, anche se in realtà Omero è un uomo di 60 anni che ha anche dei problemi di disabilità, e lui un tetto in realtà lo vorrebbe anche, però se a sue parole lui non vuole più vivere in delle case dove, insomma, diciamo, dei luoghi dove solitamente chi è meno fortunato viene messo, dove sarebbe costretto a condividere una stanza con altre sei persone di cui non conosce nessuno. Lui vorrebbe avere un tetto e una sua camera, un proprio spazio. Ed è per Ok. questo che lui si ostina anche a rimanere in piazza, perché l'amministrazione questa cosa non gliela può assicurare. E quindi lui, quasi in atto di protesta, quasi in atto di resistere a una volontà dell'amministrazione che sembra caritatevole, ma in realtà non incontra il suo bisogno umano, perché di questo si sta parlando, l'incapacità di incontrare il bisogno umano di questa persona, come l'incapacità di incontrare i bisogni umani in generale, quindi una poca riflessione su effettivamente di cosa una persona ha bisogno per stare bene. Certo, senza considerare poi, scusami se ti interrompo, l'ipocrisia di coloro i quali dicono appunto in nome della riqualificazione, in nome della comunità, da un lato si professano democratici piuttosto che aperti e sempre pronti al dialogo, e poi ecco, il loro dialogo sono otto municipalini che buttano via tutto quanto possiede, quel poco che possiede, una figura come quella che ci hai appena finito di descrivere. Sì, e fra l'altro oggi lui, vabbè, raccontava anche che gli era stato promesso, ora non mi ricordo il nome dell'assessore, Ah, poco. ma gli era stato promesso che l'assessore sarebbe andato lì a parlare con lui direttamente, Sì. ovviamente sempre questa politica abbastanza di facciata, perché poi di fatto gli assessori non possono fare niente, se non, cioè possono fare veramente poco, almeno poi all'interno del PD si crea spesso questa incapacità, no? Di promettere tanto e poi di essere effettivamente incapaci di portare delle cose a termine in un senso buono. Quindi sì, ti dico bene l'assessore, ma anche se viene poi cosa fa? Cioè, e piuttosto ti mando i municipalotti, e anche questa Punto. disomogeneità politica, questa incapacità di avere una direzione politica generale da parte dell'amministrazione. È abbastanza allucinante, perché se prometti a una persona, e comunque ti prendo in parola, che ci andrà l'assessore, e poi gli mandi i municipalotti a portarti via quello che definisce comunque la tua dimora, che anche se tu non giudichi degna perché non è una casa con quattro mura, per quella persona era un luogo più che degno ed era casa sua. Certo. Insomma. Enrico, noi ti ringraziamo molto di questo contributo perché purtroppo il Grazie. tempo stringe. Ti volevo fare un'ultima domanda che può risultare sì banale perché la risposta forse l'abbiamo già data, però se qualcuno volesse minimamente contribuire, anche solo aiutando, donando una vecchia radiolina di cui non se ne fa più nulla, si va in Brunelleschi. Sì, direttamente in Brunelleschi, in realtà una radio è già stata pervenuta, cioè un ragazzo l'ha già portata, lo stava portando nel pomeriggio. In generale sarebbe molto bello se qualcuno avesse un tavolo in disavanzo, e mi riferisco anche a spazi sociali, eccetera, insomma, da regalare a Omero alla piazza. Sicuramente Omero sarebbe molto contento. Poi se altre cose vengono in mente, lui si era fatto anche un bellissimo spazio con delle luci, dei piccoli trespoli di legno con sopra delle lucine. Avevamo creato uno spazio carino in cui proprio dove fermarsi anche per le persone che passavano. Quindi anche se ci sono sprizzi di creatività in cosa si può portare a questa persona, anche quelli penso che siano benvenuti da parte di Omero. Grazie mille Enrico, grazie mille della puntualità, della pazienza. Grazie. Un saluto, un Perfetto. abbraccio grosso da tutto il contado, a A presto. presto. Ciao, ciao Ciao, Enrico. ciao, ciao. Ciao.